1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:21 minuti, pronti a leggere i giornali, la rassegna stampa. Ben ritrovati, cari ascoltatori. Se vi aggiungete ora, come sempre, al mio grido, razza di debosciati, benvenuti. Allora, oggi di che parleremo? Parleremo alle 8:15 di questa proposta di legge per considerare reato chi nega la Shoah, ma chi nega anche qualsiasi genocidio. Davvero pensate che sia possibile, sia giusto incarcerare un'idea, anche se un'idea aberrante, come quella di chi ancora dice non c'erano le camere a gas, per esempio. Sarà con noi anche il presidente della comunità ebraica di Roma, Riccardo Pacifici. Le polemiche ancora sulla vicenda Eric Pribke, che sono tutt'altro che sopite. Ci sarà con noi anche Massimo Fini del Fatto Quotidiano. Questo alle 8:15, ora andiamo a leggere i giornali. È lunedì 21 ottobre, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre con questa notizia che abbiamo sentito anche nel giornale radio: statali, taglio del 10,5% in busta, e la legge di stabilità. Per il Corriere della Sera l'apertura è questa: 6 miliardi dagli immobili, super fondo pubblico per vendere caserme, carceri, ospedali. Repubblica, manovra un assalto da 10 miliardi, ecco tutti i costi delle modifiche dei partiti. Per il Messaggero, manovra, c'è il taglio alla sanità, è spuntato. Il Giornale, tasse, scoperto il trucco, i numeri parlano chiaro, Letta ha preso in giro tutti nel 2014, pagheremo di più anche sulla casa. La Stampa invece, Monti, attacco al governo. Per il Secolo XIX Berlusconi il soccorso di Alfano, mentre l'Unità la battaglia della stabilità. Il Fatto Quotidiano, edizione del lunedì, senti chi ruba, viaggio nel paese derubato, cioè aumentano in maniera esponenziale i furti, anche piccoli furti, per via della crisi. A proposito di crisi, avete sentito, c'è la campada a Roma, Occupai Porta Pia. Domani pare che liberino questo accampamento a Roma dopo la manifestazione di sabato che ancora oggi sui giornali porta dietro qualche polemica, perché hanno stimato in 2 milioni per esempio i commercianti i danni per la mancata apertura. Molti hanno deciso di tenere abbassate le serrande e chiusi i negozi per evitare violenze. Roma, danni per 2 milioni di euro, la protesta occupa Porta Pia, qui finché non ci ascoltano. Questo è il titolo per esempio di Repubblica a pagina 12. Sono 6 i fermati per i tafferugli. Anche per il Messaggero, guerriglia Roma, nuove indagini sui 6 antagonisti arrestati al corteo. Chi sono? Racconta Valentina Errante sul Messaggero a pagina 8. I 6 indagati, tutti incensurati, appartengono all'area antagonista di sinistra. Uno di loro ha una segnalazione per fatti di Genova del 2001, gli altri per disordini nelle curve e quindi durante le partite di calcio. Erano arrivati a Roma da Napoli, Salerno, Genova, sapevano che avrebbero corso il rischio, alcuni di loro avevano già in tasca un foglietto con il numero dell'avvocato da chiamare in caso di fermo, ma gli accertamenti andranno avanti per identificare gli altri manifestanti che hanno partecipato ai disordini. Tra l'altro mi ha davvero colpito negativamente l'intervista che a Ascanio Celestini, attore, ha rilasciato al quotidiano Repubblica. Lo intervista Francesca Giuliani e sentite cosa dice Ascanio Celestini nell'intervista che trovate a pagina 12. Sto dalla parte degli antagonisti, gli scontri era un corteo e non una passeggiata. Gli scontri, dice Celestini, dopo aver detto che la maggior parte della manifestazione è stata pacifica, e su questo non ci sono dubbi, ma le domande che fanno suscitare, a mio modo di vedere, scalpore è questa. Io gli scontri non li ho visti, ma sa che alcuni fermati saranno processati? Ma sì, è successo altre volte. Li prendono, poi magari li accusano per devastazione e saccheggio, capi di imputazione che hanno senso se radi al suolo un quartiere. Ma se dai fuoco a un bancomat, magari può essere vandalismo. Avete capito il distinguo per Ascanio Celestini? E quando gli chiede Repubblica, Alfano ha parlato di forze dell'ordine contro forze del disordine. Che ne pensa? Una manifestazione non è una passeggiata, risponde Celestini. È l'espressione di una protesta, contiene della rabbia. Quella di Alfano mi sembra uno slogan, un modo di semplificare. E vabbè, così la pensa Ascanio Celestini. Anche sulla stampa, in tenda, Portapia contro euro e governo, siamo disperati, vogliamo risposte. Diciamo che gli accampados rimangono fino a domani. Tutti i giornali hanno un'analisi di chi sono questi giovani che stanno accampati fino a domani a Portapia. Mentre... Cambiando tono e cambiando tema, mi ha veramente colpito questa storia che trovate sui giornali. Il Corriere la mette in prima pagina con un commento di Beppe Severgnini, il Quotidiano Nazionale a pagina 6, una storia che proviene da Riccione, che sembra assurda, una storia di burocrazia l'italiana, la raccomandata INPS al pensionato, 84enne Emilio Casali di Riccione, ci restituisca un centesimo, anche a rate, se lo desidera. Incredibile richiesta di rimborso dopo 13 anni. Filippo Graziosi racconta sul Quotidiano Nazionale. I conti all'INPS non tornavano. In 5 anni il pensionato riccionese Emilio Casale aveva percepito una somma più alta del dovuto e quella cifra indebitamente intascata dall'85enne ex commerciante andava restituita. Pochi giorni fa il pensionato si è visto recapitare a casa una raccomandata col bollettino: devi pagare 0,01 centesimo di euro. Un centesimo tondo. Sembrava uno scherzo, ma nel paese della mala burocrazia è tutto vero. Il mal tolto è stato percepito dal signor Casali tra il 1 gennaio 96 e il 31 dicembre 2000. Un centesimo preso in 4 anni. Vergogna, ha detto qualcuno all'INPS. Va restituito tutto questo. E Emilio Casali ha poco da dire. Non volevo credere ai miei occhi, non riuscivo a capire, mi sembrava assurdo, per un attimo ho pensato che ci fosse dell'altro, e invece dell'altro non c'era, dietro non c'era nulla, se non il bollettino per il versamento. Il pensionato dovrà saldare il suo debito entro il 14 novembre e nel caso volesse impugnare il provvedimento potrà presentare un ricorso esclusivamente online entro 90 giorni e se desidera può restituire tutto anche a rate. Un centesimo a rate. Se l'INPS chiede un cent al pensionato, così il commento di Beppe Severgnini in prima pagina del Corriere della Sera, il signor Casali e l'alleanza tutta italiana tra complicatori e agevolatori. Evviva, che dobbiamo dire? Qua non si può neanche dire che metto a disposizione i miei 2 eurini con cui giro in tasca, perché con 2 eurini questo signore estinguerà il debito in maniera anche grassa. Va bene, ci fermiamo per la pubblicità e poi riprendiamo tra qualche minuto. La legge di stabilità è ancora in primo piano, ancora polemiche, gli statali con lo stipendio tagliato, il taglio alla sanità che spunta, le tasse sulle case che forse saranno di più. E insomma, ci sono ancora tante novità in arrivo. 24 mattino. E allora siamo qua a scoprire che cosa ci propone la legge di stabilità, e non sono belle novità che si scoprono, cari ascoltatori, giorno dopo giorno. L'ultima, per esempio, sul Sole 24 Ore, il titolo di prima pagina oggi riguarda il pubblico impiego. Si sa che gli statali ogni anno vengono in qualche modo, a fronte del posto tra virgolette più sicuro rispetto al mercato privato, vengono però bloccati negli aumenti di stipendio. Racconta il Sole 24 Ore: fino a 4-5.000 euro lordi all'anno in meno per un impiegato e fino a 21.000 euro in meno per un dirigente. Questo è il conto del blocco dei contratti e degli stipendi individuali dei dipendenti pubblici che la legge di stabilità conferma anche per il 2014. Il prossimo, se il Parlamento non cambierà la norma, sarà dunque il 5º anno di congelamento contrattuale per gli statali. Questi sono gli effetti in busta paga. Senza contratti, tagli nel senso mancati incrementi, e quindi tagli in qualche modo del 10,5%. La conferma per il 5º anno del blocco degli stipendi fa aumentare gli effetti negativi in busta paga. Tra l'altro tutti i dettagli li trovate raccontati nell'articolo di Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore. Per un impiegato ministeriale i mancati aumenti del 2010-2014 costano quasi 3.000 euro, per un dirigente la perdita può valerne fino a 21.000, queste le cifre dei mancati aumenti. Mentre se gli statali piangono in qualche modo, ecco che spunta, secondo il Messaggero, e questo è il titolo di prima pagina, nelle pieghe della legge di stabilità, l'aumento, un taglio alla sanità finanziaria. Ora spunta un taglio alla sanità, per la verità su questo aveva minacciato le dimissioni anche il ministro alla sanità, Lorenzin. Luca Cifoni racconta, pagina 6, il Servizio Sanitario Nazionale non esce del tutto indenne dalla legge di stabilità. Dopo le vivaci proteste di Regioni e del ministro Beatrice Lorenzin, era stato cancellato l'articolo che prevedeva decurtazioni da realizzare con interventi sulla spesa farmaceutica e l'assistenza specialistica ospedaliera. Ma il testo definitivo della legge contiene comunque dal 2015 un taglio del finanziamento dello Stato conseguito attraverso l'applicazione al settore del blocco dei contratti fino al 2014 e di altre misure per il pubblico impiego. E dunque un taglio alla sanità di fatto, racconta il Messaggero, c'è. Ecco perché è partita la caccia parlamentare alle modifiche. Roberto Giovannini sulla Stampa, pagina 3, racconta che cuneo fiscale e il tema dipendenti pubblici, queste sono le prime modifiche allo studio nell'iter parlamentare della legge di stabilità. PD e PDL al lavoro per recuperare più risorse. Racconta Giovannini, sulla legge di stabilità il Tesoro è sicuro che margini per cambiamenti radicali non ci siano. Va da sé che i partiti di maggioranza non la pensino così e diversi ministri pesanti, tra virgolette, sono d'accordo. Il problema è trovare i soldi, anche se qualcuno in Parlamento punta su agevolazioni fiscali alle imprese o costi standard in sanità per rimpolpare il cuneo fiscale con uno sconto di 14 euro mensili che ha il sapore di una beffa. Anche sul fronte della casa i guai non finiscono mai. Anche ieri il Sole 24 Ore, scrive la Stampa, ha fatto i calcoli secondo i quali la TASI costerà più dell'IMU sulla prima casa, 3,7 miliardi di gettito attesi dalla TASI contro i 3,3 miliardi attesi dall'IMU, ballano 400 milioni, il che vuol dire che si pagherà di più. Questo è il punto di domanda col quale sul quale tutti ci interroghiamo da giorni. Anche il giornale riprende i dati ieri del Sole 24 Ore e titola, pagina 5, ecco il trucco, la TASI più cara dell'IMU. E quindi il dato di fatto è questo. Sarà davvero così? È la domanda che gira Mauro Meazza, ma insomma ce la facciamo da giorni. Caro Mauro, eccoci qua al Sole 24 Ore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è spuntato anche gli statali, è spuntato il taglio alla sanità. Ogni giorno se ne scopre una nuova di questa legge di stabilità. Devo dire, è una legge di stabilità bellissima perché sembra un copione proprio a crescere, come un libro giallo. Tieni conto che finalmente dovremmo riuscire a leggerla per davvero, perché il deposito ufficiale del documento alle Camere sta per avvenire, no? Tu citavi prima c'è un po' di polemica tra i nostri conti, i nostri calcoli e quello che sostengono al Ministero dell'Economia. A noi risulta, e ancora oggi sul Sole 24 Ore ci sono 4 pagine che spiegano appunto la legge di stabilità, e se sono dedicate proprio alla casa, l'articolo iniziale di queste 4 pagine molto chiaramente spiega che c'è il rischio concreto di un aumento anche rispetto all'IMU del 2012. Poi se sarà messa una clausola che dirà no, allora decidiamo che il massimo deve essere quello lì, benissimo, saremo sicuramente contentissimi. Tra l'altro parte questo iter parlamentare, in che cosa potrà essere modificata, Mauro? Forse anche voi ne parlate oggi? Sì, noi abbiamo un po' analizzato i punti critici. Citavi prima gli statali, sono sicuramente un punto critico perché quel congelamento, quel taglio degli aumenti, se date un'occhiata poi alle tabelle che noi riportiamo a pagina 3, ha effetti molto pesanti anche su stipendi ridotti, cioè stiamo parlando di una perdita di aumenti, di mancati aumenti per 3.000, 4.000, anche 20.000 euro addirittura nel per periodo. I dirigenti, anche se Mauro, esatto, vedi, ci scrive in tempo reale un ascoltatore, dice: io sono un bancario, non sono statale, il mio stipendio negli ultimi 5 anni si è decurtato del 20%, quindi diciamo. Il signore, purtroppo, come dire, è chiaro che gli statali soffrono, o quantomeno c'è una sorta di malcomune mezzo gaudio, si diceva con un brutto proverbio, e gli statali sono chiamati a questi sacrifici. Il sospetto è che però, appunto, questo tipo di sacrifici finisca per colpire molto duramente, troppo duramente, specialmente il ceto medio, cioè quello non a redditi poi elevati, ma che è soltanto, diciamo, oltre la soglia della normale sussistenza. E questo certamente. Ti volevo segnalare però una cosa buona, cioè di buon auspicio, che abbiamo oggi sul Sole. Ci sono 4 pagine dedicate alla ricerca di lavoro, specialmente giovanile, con una serie di consigli, di siti, di indirizzi, di posti dove andare a cercare, anche non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Europa. In Europa vuol dire in Germania, vuol dire nel Regno Unito, vuol dire in Francia. Come si fa ad andare a cercare questi posti, quali sono i posti che possono essere diciamo più appetibili, più ricercati dalle aziende, ripeto, non solo italiane ma europee. Beh, interessante anche per chi vuole allargare un po' gli orizzonti. Grazie Mauro, ricordati, grazie, che le partite durano 90 minuti e quindi bisogna tenere fino all'ultimo, invece la tua Inter in coda il veleno, dicevano i latini, e tu non vuoi essere da meno. Mi sembra giusto, come ho detto prima, una settimana che è andata bene al Milan, abbia recuperato dei punti a qualcuno, fatemi godere almeno per 2 giorni, poi martedì c'è il Barcellona e tornerò con le orecchie mozzate. Grazie Mauro Meazza, ci troviamo ovviamente domani. E, che dire, fa 2 interviste il vice ministro dell'economia Stefano Fassina, che sarà tra l'altro ospite alle 9 di Giovanni Minoli, e per dire: ci ha piegati l'austerità sull'unità, ora investimenti, e respinge anche le accuse dell'intervista del giorno che vedremo tra poco, vale a dire Mario Monti, che ieri intervistato da Lucia Annunziata e ripreso da tutti i giornali, ha detto: il governo Letta è succube e inginocchiato al Popolo della Libertà, noi non siamo piegati al PDL. Il senatore Monti fa un errore grossolano, dice Fassina, che tra l'altro invece in un'altra intervista a Repubblica, pagina 2, intervistato da Goffredo De Marchis, dice: Resto perché aveva minacciato le dimissioni, resto per combattere il rigore imposto dall'Unione Europea. Non era un problema personale, dice Fassina, il problema era la piena cittadinanza di una posizione politica, quella di chi crede con forza all'insostenibilità della linea economica dell'Eurozona, di chi denuncia le contraddizioni di un'austerità cieca, di chi combatte la svalutazione del lavoro. Comunque rimane Stefano Fassina. Mentre per rilanciare l'economia c'è un piano, per la verità questo piano, cari italiani, diciamolo francamente, l'abbiamo sentito, io in 42 anni di vita l'ho sentito da quando sono nell'età più o meno per capire queste cose, almeno 20 volte. Eccolo qui però, torna, 6 miliardi dagli immobili, così titola il Corriere della Sera. Secondo il Corriere della Sera c'è un articolo di Sergio Rizzo in prima pagina. Ci sono immobili per un controvalore di 6 miliardi e 100 milioni di euro, caserme, carceri, ospedali che lo Stato è pronto a vendere. È stato creato anche un superfondo, il superfondo degli immobili di Stato SGR di Invimit, che dovrà gestire questa vendita di immobili. Ripeto, un piano che si sente di tanto in tanto, ritorna. Racconta Sergio Rizzo in prima pagina e poi intera pagina 3 del Corriere della Sera il piano. Invimit ha avuto 10 giorni fa il benestare di Banca Italia, gestirà i fondi, cercherà soggetti privati pronti a investire. Ci sono per esempio storie incredibili come quella dell'ospedale San Giacomo, che dopo un tira e molla da 3 anni è stato chiuso ed è vuoto. Vi spiegheranno perché, se chiedete il perché non venga riutilizzato, vi spiegheranno che la faccenda è complicata, scrive Sergio Rizzo. L'immobile è vincolato, poi c'è la questione sollevata da Olivia Salviati, discendente dal cardinale Antonio Maria Salviati, che al tempo lo regalò allo Stato Pontificio. Sostiene che fu donato solo per usi benefici e non può essere impiegato che per quelli. Insomma, se qualcuno ha pensato di trasformarlo in ufficio o peggio ancora un albergo, se lo può scordare. Anche in questi frangenti si capisce come gestire il patrimonio pubblico sia una faccenda davvero complicata in Italia. E così invece non dovrebbe essere. Secondo le stime di qualche anno fa, il patrimonio pubblico di immobili potrebbe essere di 700 miliardi di euro attuali, in realtà stime più credibili lo hanno fatto scendere a un valore compreso tra i 300 e i 400 miliardi, sta di fatto che il governo sarebbe pronto a vendere per fare almeno 6 miliardi di euro caserme, ospedali e scuole. Staremo a vedere. La notizia, come dire, del giorno è che è successo a Mario Monti. Se l'è presa con tutti. Il suo aplomb teutonico o britannico, che dir si voglia, sembra essere stato spazzato via di colpo dopo le dimissioni da Scelta Civica. Ieri si è presentato alla Luce Annunziata, ha fatto nomi, cognomi, se l'è presa anche con Daria Bignardi, perché gli ha messo improvvidamente il cagnolino Empi sulle braccia durante l'intervista. Avete sentito, l'abbiamo fatta sentire alle 6:30, ha detto la sua collega rivolta a Lucia Annunziata, se collega così si può chiamare, mi ha messo un cagnolino, una cosa assolutamente scorretta. E poi se l'è presa con il ministro Mauro, se la prende con il PDL, succube. Se la prende anzi col governo Letta, succube del PDL, si scrive Letta ma si legge Brunetta. Insomma, un Mario Monti che ha iniziato a sparare a destra manca politicamente, e questo è il titolo che trovate su tutti i giornali. Monti, governo succube del PDL, titolo del Corriere della Sera, mentre per Repubblica Monti furioso con Letta si è inginocchiato al PDL, c'è anche il battibecco con Casini. Questo è il tema politico del giorno. Per il resto, sempre la questione Berlusconi. Falco o colomba? Falco o colomba? Dopo il traffico. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Eccoci qua, allora, si è scatenato un putiferio con l'SMS che ho letto del bancario che dice anch'io lo stipendio decurtato del 20% come gli statali invece bloccati, e c'è chi dice beh datemi lo stipendio del bancario e sono disponibile a farmelo decurtare, o chi ci scrive lavoratore Fiat da anni bloccato, da 5 anni aumenti assorbiti del sovraminimo, un lavoratore delle forze di polizia stipendi bloccati da 7 anni, datemi lo stipendio del bancario, faccio volentieri a meno del resto, oppure un autoferrotranviere, anche lui ci scrive, decurtato e bloccato lo stipendio, e vabbè, insomma, questo purtroppo è lo spaccato dell'Italia, con anche chi scrive, anche se la prende con gli statali che non vengono mai messi in cassa integrazione, o chi scrive, anche noi privati abbiamo decurtato lo stipendio, è bene che anche loro assaggino il disagio. Purtroppo è questo, c'è il rischio che si trasformi poi in una guerra tra cittadini. Allora, intanto la politica è abbastanza deprimente, vedere che ci sono paginate, io non le vorrei leggere, lo dico, non le vorrei leggere, ma questo è, paginate sul PDL, i riposizionamenti, falchi o colombe. Il PD invece discute sulla legge elettorale, si apre oggi la 25esima settimana decisiva per la riforma elettorale, voglio ricordare, nonché la 25esima settimana decisiva per l'abolizione delle province. C'è il classico retroscena su Repubblica, Francesco Bei, la posizione di Berlusconi sarebbe questa, Alfano lasci il posto al Viminale, Berlusconi vorrebbe rimpiazzare uno dei, come si chiama, i lealisti, no? I lealisti chi sono? Vabbè, Alfano, insomma, che gli è un po' contro, per mettere al suo posto al Viminale o Paolo Romani, oppure Schifani, non Fitto, perché racconta Repubblica, Fitto ha una condanna in primo grado e quindi non è forse opportuno. Ma Letta chiude la porta alla staffetta, dunque vorrebbe un rimpasto di governo. Una pagina del Corriere per dire che Renzi teme le trappole del centro, e una pagina per dire che i candidati del PD si dividono sulla legge elettorale. Vabbè. La politica è tutta qua. Interessante invece l'indagine che fa il Fatto Quotidiano, due pagine, l'edizione del lunedì, è dedicata ai furti. Ogni 5 minuti il furto di un'auto. Silvia Donghia, pagina 4 e 5 del Fatto Quotidiano, se si osservano i filmati delle telecamere di sorveglianza dei supermercati, si vedono sempre di più degli anziani, signori ben vestiti, che guardano la minestrina liofilizzata, valore neanche un euro, e quando aspettano, quando il momento è opportuno, mettono e scappano, ma vengono, mettono via ovviamente nella tasca, ma vengono sempre fermati. La fotografia della Banca d'Italia che dice che chi ruba dal 2008 a oggi è innegabilmente legato alla crisi economica, sempre di più. Recente studio di Banca Italia analizza la relazione tra il rallentamento dell'attività economica dei primi due anni di crisi 2008 e 2009 all'intensificazione di episodi criminosi. Ogni 5 minuti il furto di un'auto, questo è il titolo dell'inchiesta che trovate a pagina 4 e 5. Insomma, la crisi provoca anche il boom dei ladri o dei piccoli ladri. C'è ancora la vicenda Erich Priebke, che tratteremo alle 8:15 con noi il presidente della comunità ebraica di Roma Riccardo Pacifici e Massimo Fini. Il legale di Priebke esalta ancora il nazista, Pacifici dice la tomba mai in Italia, ma insomma parleremo anche della discussione se sia giusto o no punire col carcere, una legge lo prevede, chi nega la Shoah. Pepito d'oro, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport, e vabbè, succede, si è in vantaggio 2-0 e poi 4 pere. Ma voglio chiudere con la carta costa, vale a dire l'articolo più inutile scovato sui giornali, un'intera pagina di Antonio Borrelli sul Giornale per la disfida tra i fan dei Believers e i fan dei One Direction. Credo che siano questi gruppi davvero improponibili. Parlare di musica è davvero tanto, così massacreranno anche me. Alino Mila nel mio profilo Twitter: scatenatevi Believers, scatenatevi Directioners, ma chi se ne frega, i Directioners contro i Believers, le nuove tribù degli adolescenti unite dalla venerazione di star musicali, divise dall'odio fino a picchiarsi, e si parlano così: ti lovo, sfighi, busta, bimbo minchia, ti asco, scialla. Ma dai, ma va bene, ma parlate del disagio giovanile vero? I Believers, i One Direction, dai, andiamo al giornale radio.